9 ottobre, da Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba, 9 ottobre. Oggi Ada, Luisa e Virginia hanno tormentato tutto il giorno la mamma perché acconsentisse a dare quella famosa festa da ballo della quale esse chiacchierano tra loro da tanto tempo. Prega e riprega la mamma, che è tanto buona, ha finito per contentarle e la festa è stata fissata per martedì di quest'altra settimana. Il bello è che, discorrendo degli inviti da fare, hanno rammentato naturalmente anche tutti quelli ai quali ho portato ieri le fotografie. Figuriamoci se dopo quei complimenti scritti dalle mie sorelle in fondo ai loro ritratti avranno voglia di venire a ballar con loro. Fine del 9 ottobre.